Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è il secondo appuntamento con gli speciali di Nessun Luogo è Lontano, ma soprattutto buon inizio d'anno. E gli auguri vi arrivano da me, Giampaolo Musumeci, da Mira Lucchetti che è in redazione e Valeria Bernardi in regia. Questo, dicevo, è il secondo speciale. Se vi siete perso il primo, che era una riflessione sull'acqua e su quanto l'assenza, la carenza, l'insufficienza di risorse idriche possano portare a crisi, a conflitti e appunto a crisi geopolitiche nel mondo. Se ve la siete persa, andate sul sito radio24.it e andate su Nessun Luogo è Lontano e potrete riascoltarla. E se dicevo in quel primo speciale ci siamo occupati di acqua, questa volta ci occupiamo di cibo. Se tu Manhattan fast food Dakar, Senegal, cinéma le Paris, demain je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à moi. Allora, quanto il cibo, o meglio l'assenza di cibo, la difficoltà di approvvigionarsi a derrate, a risorse alimentari, possono essere non tanto un generatore di conflitti, perché questa forse è una visione un po' estrema, si stiracchia forse un po' troppo il concetto, ma quanto possono essere un detonatore di crisi sociali e di conflitti. Ne parlavamo durante il primo speciale con i nostri ospiti, con Paola Caridi su tutti, e si parlava della primavera araba, si diceva quanto le grandi siccità avessero portato a un innalzamento delle risorse delle materie prime, soprattutto il grano, e quelle che all'inizio furono rivolte del pane, quindi rivolte dettate dalla fame, poi diventarono dei catalizzatori di un generale malcontento sociale e politico. Proprio su questo vorremmo concentrarci in questo speciale di Nessun Luogo è Lontano, ma prima noi dobbiamo dare i numeri. Do intanto il mio buongiorno e benvenuta a Elena Albani, responsabile CESVI per quello che si chiama Global Hunger Index. Elena, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo è Lontano. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, Elena Albani in CESVI si occupa proprio della pubblicazione In Italia sono loro, è l'ONG di Bergamo, con base a Bergamo, che si occupa della pubblicazione di questo indice. Che cos'è? Beh, è presto detto, sono i numeri. Allora, siccome Nessun Luogo Lontano ci piace dare i numeri, partiamo proprio da quelli. L'Indice Globale della Fame 2013, GHI, relativo ai dati del periodo 2008-2012, mostra che la fame mondiale è diminuita di un terzo rispetto al 1990. Nonostante i progressi, il livello della fame nel mondo rimane grave, con 870 milioni di persone a soffrirne, secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. L'Asia meridionale e l'Africa subsahariana presentano i livelli di fame più alti. Rispetto al 1990, 23 paesi hanno compiuto progressi significativi, riducendo i rispettivi punteggi GHI del 50% o più. 27 paesi sono usciti dalle categorie estremamente allarmante e allarmante. In termini di progresso assoluto rispetto al GHI 1990, i primi 10 paesi sono stati Angola, Bangladesh, Cambogia, Etiopia, Ghana, Malawi, Niger, Ruanda, Thailandia e Vietnam. Il livello di fame è ancora allarmante o estremamente allarmante in 19 paesi. Quelli scesi nella categoria estremamente allarmante, Burundi, Comore ed Eritrea, sono tutti in Africa subsahariana. L'aumento della fame rispetto al 1990 in Burundi e Comore è attribuibile al conflitto prolungato e all'instabilità politica. La Repubblica Democratica del Congo era classificata come estremamente allarmante nel rapporto 2011, ma da allora in poi non è stato più possibile calcolarne il punteggio GHI per l'insufficienza di dati disponibili. E come avete sentito, paesi, continenti e numeri soprattutto, è una classifica che è una classifica tragica, perché parla di quei paesi in cui la maggioranza della popolazione soffre di, appunto, di fame. Come avete sentito, vengono citati alcuni esempi, il Burundi, esempio, l'Eritrea, la Repubblica Democratica del Congo, poi tenteremo di addentrarci in alcuni casi particolari. E avete sentito dalla scheda che molto spesso l'indice della fame schizza in alto proprio a causa dei conflitti. Noi cerchiamo di fare un po' un processo inverso, no? Di stabilire quanto l'assenza di cibo, di derrate alimentari possa inasprire ad esempio conflitti o innescare conflitti. Torniamo da Elena Albani del CESVI per capire come si leggono e come si commentano questi dati. Elena. Beh, i dati devono necessariamente essere letti, perché da soli non danno esattamente idea di che cosa sta accadendo, soprattutto nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale. Innanzitutto, come dicevi tu, l'indice è uno strumento di misurazione, ma che cosa misura esattamente? In generale misura la fame ed ha un punteggio a livello mondiale, regionale e nazionale, ma più nello specifico utilizza tre indicatori molto importanti. Il primo è la percentuale di popolazione denutrita di un paese. Il secondo è il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni e il terzo è la percentuale di bambini sottopeso sotto i 5 anni. Perché è importante vedere queste tre componenti? Perché i paesi non sono tutti uguali. La fame non è un fenomeno monolitico che unisce l'Africa subsahariana o l'Asia meridionale. È importante leggere queste tre componenti perché ci fa capire quali sono i problemi reali all'interno di un singolo paese per poi capire laddove intervenire. Per esempio, già solo l'Africa e l'Asia non sono uguali. La storia dell'Asia meridionale e dell'Africa subsahariana sono completamente differenti. Per esempio, il progresso dell'Africa subsahariana è maggiore dell'Asia meridionale. Perché? Forse anche perché comunque l'interesse della comunità internazionale, basti pensare alla fondazione del Global Fund, ha permesso all'Africa di fare passi in avanti notevoli. Basti pensare alla lotta all'AIDS, sì, alla diminuzione dell'incidenza della malaria, sì, l'assistenza prenatale, anche sicuramente poi il lavoro integrato fatto con cibo e acqua. Tu prima parlavi della scarsità di risorse, no? Sì. Dell'acqua. Bene, non si può parlare di cibo se non si parla di acqua, se non si parla di acqua potabile e di strutture igienico-sanitarie che permettano alla popolazione non solo di accedere all'acqua, ma di poterne usufruire in modo sano. Chiarissimo. Quindi questo è un po' la storia dell'Africa ed è la storia di molti paesi come è stato il Sudafrica, il Ghana, la Namibia, il Ruanda stesso. Tu infatti hai citato il Ruanda ed è vero, è un paese che prima era in conflitto, oggi non lo è e si sono poste le basi per uno sviluppo del paese. Lo stesso accade per l'Uganda, in particolar modo il Nord Uganda, dopo 20 anni di conflitti. Oggi finalmente il paese comincia a crescere e sta puntando, grazie anche alla comunità internazionale, a uno sviluppo dell'agricoltura sostenibile, soprattutto nella zona appunto Nord Uganda e Karamoja. Sì, che fra l'altro è uno dei progetti di cui voi specificamente vi occupate come CESVI. C'è il traffico, Lailen, poi torniamo a parlare di una tua esperienza diretta sul terreno in Zimbabwe per indagare un po' meglio, iniziare ad addentrarci su quello che è il legame tra conflitto e, scusate, lo dico brutalmente, l'assenza della pagnotta. A tra pochissimo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è uno speciale di Nessun Luogo Lontano. Buon anno anche, e vi viene da Miriam Lucchetti e Valeria Bernardi, che sono con me a confezionare questa puntata speciale appunto di Nessun Luogo Lontano. Siamo partiti domandandoci quali guerre, quali conflitti si combattono per fame. Dette in altri termini, nel mondo, quando si ha la pancia vuota, si spara più facilmente o ancora l'assenza di risorse alimentari per tutti, per tutta la popolazione, ad esempio, di uno Stato, quanto è detonatore, quanto può portare a un conflitto? Ci sta aiutando in questa analisi innanzitutto Lailen Albani, responsabile del CESVI, per quello che è l'indice globale della fame che viene pubblicato in Italia appunto dal CESVI, che ci ha spiegato meglio come va letto e come va interpretato. Entriamo un po' più però nel dettaglio proprio con Lailen Albani, che ha anche esperienza sul campo, soprattutto africana. Lailen, di nuovo buona giornata e buon anno ancora. Esperienza Grazie. Diretta, partiamo dallo Zimbabwe, dove tu hai lavorato e dove ci puoi un po' illustrare quel rapporto che c'è, no, tra pancia vuota e malcontento sociale, in generale possibile rivoluzione. Sì, nel 2008, quando sono stata in Zimbabwe, in effetti c'è stata una situazione molto molto delicata. Era un anno molto difficile. Il 2008 è stato l'anno, insieme al 2007, della crisi alimentare. Quindi le commodity alimentari, grano, riso e mais, sono schizzate alle stelle. In effetti già il Mozambico stava vivendo un momento particolarmente complesso e lo Zimbabwe anche. Parliamo di paesi come Zimbabwe e Mozambico che sono il granaio dell'Africa australe, considerati quindi paesi estremamente agricoli. Quindi un blocco blocco della produzione agricola avrebbe sicuramente causato problemi e disordini di tipo sociale. Nel caso dello Zimbabwe nello specifico, in quel periodo ci siamo trovati di fronte a un blocco totale dell'attività produttiva in senso lato. C'era uno sciopero costante degli insegnanti, degli infermieri, dei medici, degli agricoltori. Era uno stato bloccato. Gli stipendi erano troppo bassi, non c'erano sbocchi per i giovani, il tasso di giovani ragazzi di strada che si ritrovavano a vivere per strada, vivere di espedienti, anche purtroppo di criminalità, era altissimo. Quindi i nostri interventi sociali toccavano tutti gli ambiti della società, dal recupero psicosociale alla formazione professionale, al tentativo del reinserimento lavorativo dei giovani. Che cosa è successo? Ci siamo trovati in un periodo, ed era principalmente il settembre-ottobre del 2008, sì, a vedere un paese in cui il malcontento stava crescendo enormemente. Sì. C'era una fortissima instabilità sociale, nessuno più accettava determinate condizioni di lavoro, di salario, e questo ha fatto sì che per un certo periodo aumentasse anche il livello di insicurezza alimentare, perché non lavorando la terra la popolazione non riusciva ad avere cibo a sufficienza. Certo. Quello che dicevi tu è importante capire che la fame non è solo mancanza di cibo, non manca solo la pagnotta, è molto di più. La fame è un fenomeno umano ed è un fenomeno multidimensionale, quindi vedere la fame solo come l'assenza di un cibo non è sufficiente. È importante capire quelle che sono le dinamiche sociali, economiche, politiche che girano attorno. E quindi essere in un paese come quello o in altri, come appunto il Mali, piuttosto che il Mozambico, permette di capire come bisogna lavorare a tantissimi livelli, non solo con le popolazioni, ma anche con il governo, con gli altri attori del territorio, con le università, per dare delle opportunità alla popolazione. Sì, ecco, hai citato il Mali, e non è un caso, no? Che in realtà tutta la fascia del Sahel abbia vissuto prima periodi di carestia e siccità e poi le ultime vicende maliane che non sono affatto concluse, perché la crisi è assolutamente ancora non risolta. E qui di nuovo, no, possiamo indagare come crisi, carestia, crisi alimentare poi in qualche modo inneschino anche crisi politiche, crisi sociali. Sì, è tutto collegato. I Mali noi l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni, probabilmente, per quello che è esploso. In realtà è successo qualcosa anche prima. Noi abbiamo lavorato in Mali dal 2008, nel periodo esattamente 2008-2010, con un progetto molto interessante che sfruttava la tecnologia GIS. Abbiamo lavorato per fare in modo di evitare conflitti tra gruppi interetnici. Come? Mappando il territorio. Il Mali, come sapete, è nella zona saheliana, pertanto il terreno fertile a disposizione è molto poco. Le fonti idriche sono scarse. Ma la popolazione ha bisogno di coltivare. Le mandrie ci sono e sono gestite da gruppi etnici differenti. Il nostro lavoro è stato quello di mappare il territorio insieme alle comunità locali, appunto di etnie diverse, e fare in modo che la transumanza del bestiame non andasse a intaccare terreni coltivati da altre etnie, e che l'approvvigionamento idrico fosse equamente diviso e equamente strutturato tra le diverse etnie, in modo da evitare i conflitti. Sì. È importante riuscire anche a prevenirli, non solo a gestirli quando accadono. Certo. Fra l'altro, Leilen, questa dinamica che tu hai descritto molto bene è comune a tanti, tantissimi paesi africani in cui vi sono tribù che vivono, clan, tribù che vivono di pastorizia, quindi di allevamento, quindi si spostano, sono tribù nomadi, si spostano con i loro greggi e inevitabilmente nei loro spostamenti, dettati dalle condizioni atmosferiche, eccetera, vanno a scontrarsi con magari quelle che sono tribù stanziali dedicate all'agricoltura, e lì insomma come dire, la questione sta in poco spazio: la terra è quella, il cibo è quello, l'acqua è quella, bisogna spartirsela. A volte si spartisce, altre volte vi sono conflitti, fra l'altro conflitti molto frequenti e, passatemi il termine, micro conflitti che non guadagnano assolutamente spazio nella stampa italiana. In quella internazionale è pochissimo, figuriamoci appunto in quella italiana. Grazie Leilen Albani, responsabile CESVI per l'Indice Globale della Fame, grazie per essere stata con noi. Ancora un buon inizio d'anno e buon lavoro. Buon anno a voi, grazie a tutti. Insomma, in queste analisi, per rispondere in ultima istanza alla domanda che, detta brutalmente, è questa: quando ho la pancia vuota, imbraccio più facilmente il fucile, quando non c'è più la pagnotta, quando non c'è un adeguato accesso alle risorse alimentari, è più facile che io a questo punto vada in piazza a contestare il leader di turno, il dittatore di turno. Non vi ricordo un po' l'inizio della primavera araba, questa dinamica, gentili ascoltatori? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo in questo speciale di Nessun Luogo è Lontano. Avete sentito cos'è l'Indice Globale della Fame, quanto possa essere interessante e importante la sua lettura. Voglio allargare un po', voglio prendere un grand'angolo adesso per analizzare un po' meglio questa dinamica che sto tentando di spiegarvi, e lo facciamo con Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI. Paolo, buona giornata, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie a voi, buongiorno. Allora, l'ISPI è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, è la prima volta che fra l'altro ospito il suo direttore Paolo Magri. Beh, andiamo subito al dunque, direttore. È corretto dire che la mancanza di cibo, non dico che causi direttamente guerre o conflitti, ma di sicuro li fa esplodere, cioè è un ottimo, formidabile catalizzatore? Beh, cibo e conflitti hanno un rapporto più univoco. Da un lato i conflitti creano scarsità di cibo, è quello che conosciamo, abbiamo visto in Darfur, lo stiamo vivendo in Siria in questo momento, perché muovono persone, rendono insicure delle aree e il cibo viene usato come strumento di pressione. Dall'altro lato è innegabile che la scarsità di cibo favorisce la nascita di conflitti. Possiamo andare lontani, la rivoluzione francese e la rivoluzione russa hanno avuto come uno degli elementi la scarsità di cibo, quindi creano delle situazioni in cui si creano tensioni. Ed è anche abbastanza ovvio, se pensiamo che per un consumatore americano la spesa alimentare è un decimo del reddito, per un consumatore di paesi dell'Africa subsahariana è il 60-70%, quindi un aumento del 10-20-30% delle rate agricole crea una situazione di disagio profondo che favorisce conflitti. Ecco, tu hai giustamente citato quella che è la dinamica inversa, cioè il fatto che la carenza di cibo sia poi uno degli effetti, uno dei risultati di un conflitto, di una guerra prolungata, ed è quello ad esempio che stiamo vedendo in Siria, perché ormai la gente in tantissime zone della Siria non può più occuparsi della terra, non può più occuparsi dell'attività economica, e qui si vede come questo fattore diventi un modo per prolungare una situazione di crisi, una situazione di conflitto, per cui c'è un rapporto bionivoco, no? Vizioso che si autoalimenta. Sì, e anche questo non è un fenomeno nuovo. Boutros Ghali, segretario generale dell'ONU, nel 93-94 pubblicò un'agenda per la pace in cui appunto parlava di questo fatto, che non c'è pace senza sviluppo, non c'è sviluppo senza pace, e lo sviluppo è innanzitutto garantire a tutti l'accesso al cibo. Ecco, Paolo, all'inizio della trasmissione abbiamo citato, così come nel caso della puntata dedicata all'acqua, alla guerra per l'acqua, abbiamo citato la primavera araba, perché poi forse, come dire, offuscati da quei tratteggi di dittatori che sono caduti, no, in tutta la zona del Nord Africa, e forse offuscati da un evento storico incredibile, epocale, che i reporter hanno gestito forse in maniera poco lucida, come è chiaro, perché poi è lo storico, no, che a distanza di tempo riesce a vedere bene le cose, però mi sembra che nel racconto di quella primavera araba la scarsità di cibo, quella lotta, quelle manifestazioni per il pane, perché tutto nacque da lì, siano state un po' sottovalutate in qualche modo. Mi sbaglio oppure... Sì, perché noi tendiamo spessissimo a leggere negli eventi del mondo attorno a noi ciò che ci riporta maggiormente a noi. Quindi della primavera araba abbiamo letto primariamente la richiesta di diritti, i diritti che poi erano i diritti della società occidentale. Si diceva in quei giorni che era la vittoria dell'Europa, perché senza che l'Europa facesse nulla, questi sì. Giovani protestavano per dei diritti come le libertà individuali, come il diritto al voto, il diritto a una società più giusta. Però giustamente, come dicevi poco fa, una delle cause scatenanti è stata proprio l'aumento dei prezzi del cibo. Non è un caso che la primavera araba si collochi proprio al termine della grossa crescita dei prezzi alimentari del 2006-2007-2008, e in quelle piazze c'erano questi due componenti, la richiesta di diritti e la richiesta di miglioramenti economici. Miglioramenti economici in paesi dove buona parte della popolazione non lavora, 40-50% di tassi di occupazione, soprattutto giovanile, dove chi lavora fa lavori finti con redditi minimi negli impieghi pubblici che tengono occupata la popolazione in lavori improduttivi e mal pagati, e dove la gente si nutre grazie ai sussidi dello Stato, nel senso che buona parte delle derrate agricole, dal grano all'olio, riceve dei sussidi che li rendono accessibili alla popolazione. Nel 2008-2009 i prezzi sono aumentati e si discuteva, su richiesta del Fondo Monetario, cosa che si discute tuttora, di abolire i sussidi agricoli. Quindi le prime proteste sono state proteste per il cibo, anche su cui poi si è innestato un movimento anche legato ai diritti. Sicuramente, se non riconosciamo questa duplice componente delle primavere arabe, i diritti e il miglioramento economico, non faremo passi avanti. Tanto è vero che in questi paesi si sta in questo momento peggio economicamente di prima, e questo è un detonatore, un esplosivo su una situazione già incandescente. Sì. Paolo Magri, stai con noi, ascoltiamo le previsioni meteo, così come dire, stabilmente, solidamente legate a quella che è la scarsità di acqua e poi tutto quel processo che abbiamo descritto. Previsioni del tempo, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano e ti farò l'ultima domanda. Nessun luogo è lontano. E vuole essere un po' una provocazione, gentili ascoltatori, mentre in questi giorni noi occidentali normalmente ci rimpinziamo, cenoni, mica cenoni, vigilia, antivigilia, eccetera, eccetera, e vi propongo una riflessione su un tema assolutamente antitetico, cioè la fame. Siamo partiti dall'indice globale della fame, che misura questo fenomeno nei vari paesi descrivendo la loro situazione. Abbiamo tentato di analizzare e di come dire, riportare alla giusta dignità questo fenomeno durante la primavera araba, cioè attenzione che tutto nacque, ed è un fattore che non possiamo sottovalutare e dimenticare, tutto nacque proprio da una protesta per il pane, per l'innalzamento dei prezzi delle risorse alimentari. E siamo in questa analisi con Paolo Magri, che è direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, a cui vorrei rivolgere l'ultima domanda prima di salutarlo e lasciarlo al suo lavoro. Dato questa complessità, data questa lettura che abbiamo capito è piuttosto complessa, dato la lettura che abbiamo dato della primavera araba, che insegnamento possiamo trarre per leggere i conflitti che adesso sono in corso e magari prevenire potenziali conflitti futuri? Ci sono degli indicatori che devono farci allarmare, ad esempio eccessiva scarsità di piogge, eccessivi innalzamenti repentini dei prodotti, delle materie prime, eccetera, eccetera? Che insegnamento possiamo trarre, Paolo Magri? Gli indicatori li abbiamo tutti, perché i prezzi delle derrate agricole sono tenuti sotto controllo da decenni, la scarsità di risorse idriche, che è strettamente collegato a quello di risorse, è sotto controllo. Abbiamo anche degli indicatori per misurare quando in una regione le tensioni sociali, i conflitti stanno aumentando. Il problema è utilizzarli e noi non li utilizziamo. Prendiamo le primavere arabe e vediamo le implicazioni anche in termini politiche. Ci sono due motivazioni, abbiamo detto, richiesta di diritti e richiesta di miglioramenti economici e accesso al cibo. Qual è stata la risposta che è stata data a livello globale? Una risposta solo sugli aspetti politici, cioè abbiamo esaminato per mesi, per anni ormai, l'evoluzione politica dell'Egitto, della Libia, della Tunisia, ma non sono state fatte politiche per intervenire e rimuovere uno dei fattori di tensione, quello della difficoltà economica. Come dicevamo prima, in questi paesi oggi si sta peggio e la comunità occidentale, trincerata dentro il Fondo Monetario, nell'erogare prestiti ha richiesto nel momento più difficile che i sussidi agricoli venissero tolti. Quindi quando la popolazione stava peggio si dava l'ultimo colpo ulteriore, con mosse assolutamente improponibili da un punto di vista politico. Questi governi deboli non sono in grado di fare questo. L'altra considerazione è porre l'agenda alimentare al centro, non alla periferia del dibattito. Noi in questi mesi abbiamo esaminato le proteste in tutti i paesi del mondo, Turchia, Brasile, Russia, eccetera, che hanno superato come attenzione le tensioni sulle questioni alimentari. Abbiamo parlato dei ceti medi in piazza. La questione alimentare deve essere al centro. Uno studioso come Julian Crib, nel libro La prossima carestia, parla di della Terza Guerra Mondiale e dice che non sarà fatta di potenze che si scontrano per il potere, ma di stati falliti legati alla lotta per il cibo, al terrorismo e all'instabilità politica. Ecco, forse uno scenario apocalittico, ma ci deve far riflettere, perché buona parte dei paesi africani e alcuni paesi asiatici sul cibo si giocano le prossime scommesse politiche sì. di stabilità. Sì, ecco, fra l'altro, se posso dire la mia dal punto di vista, come dire, del reporter, del giornalista, quando in quest'ultimo anno e mezzo, due anni, mi sono più volte recato sia in Tunisia che in Egitto, effettivamente la sensazione era di un totale scollamento tra quelle che erano le richieste della popolazione, che continuavano a dire qua abbiamo fame, qua non c'è lavoro, qua non c'è, non c'è occupazione, e un'ipertrofica attenzione, un'ipertrofia mediatica su quelle che erano tutte le dinamiche politiche, il presidente, mica il presidente, ad esempio sulla Tunisia le leggi, l'emergenza immigrazione, quando poi c'era tutta una realtà che era totalmente, come giustamente dicevi tu prima, ignorata e snobbata, forse anche strumentalmente, diciamocelo, dai governi occidentali e europei in primis. Eravamo presi da altre preoccupazioni e non era politicamente presentabile in nessun paese europeo, neanche negli Stati Uniti, un intervento economico, quando nei nostri paesi si sta, come si sta facendo tuttora, per l'austerità, riducendo il welfare, c'è cassa integrazione, c'è disoccupazione. È un processo di estrema miopia, perché questi problemi li nascondiamo sotto il tappeto come la polvere, ma ce li troviamo ingigantiti fra pochi anni a poche migliaia o centinaia di chilometri dalle nostre coste. Quindi questo è il nodo. Non l'abbiamo fatto 20 anni fa con l'ex Unione Sovietica, quando è crollata e subito siamo intervenuti economicamente in modo drastico, sì. Avevamo anche i fondi all'epoca, sì. Lo stiamo facendo ora con una profonda miopia di cui forse, spero di no, ma forse pagheremo le conseguenze. Grazie allora a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro e buon anno anche a te allora. Grazie a voi. E così con Paolo Magri, direttore dell'ISPI, abbiamo ridato la dignità analitica che merita il tema della fame, per spiegare quelli che sono i grandi conflitti, le grandi crisi geopolitiche internazionali, che è bene ricordarlo, anche se avvengono apparentemente lontani da noi, poi ci toccano molto molto molto da vicino. E mi è piaciuto, come dire, pane al pane, vino al vino, Paolo Magri, quando dice miopia da parte dei governi occidentali. È vero, troppa attenzione forse alle dinamiche politiche di un Egitto, attenzione ai fratelli musulmani, insomma tutto quello che è accaduto, che anche noi di nessun luogo lontano vi abbiamo raccontato. E poi però c'è un paese dietro, c'è una realtà, ci sono tassi di disoccupazione altissimi, c'è una classe borghese egiziana insoddisfatta, ci sono agricoltori che non riescono più a coltivare, e tutto questo nel racconto giornalistico forse è un po' mancato. Anche i giornalisti un po' troppo presi dalle beghe politiche, di sicuro è mancato da parte di chi doveva prendere decisioni, di chi doveva stanziare fondi e aiutare quei paesi a uscire da quella delicata transizione che era la primavera araba. Abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di cibo, beh, c'è una cosa fondamentale che le lega a tutte e due, ed è la terra. E per quella terra così preziosa in giro per il mondo si scatenano lotte incredibili, certo non sempre, per carità, imbracciando il Kalashnikov, ma a volte dentro ai palazzi c'è chi decide di soddisfare gli appetiti di terra e anche di derrate alimentari che quella terra può portare. Stefano Liberti, buongiorno, ben trovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Stefano Liberti, ciao. Autore di Land Grabbing, Minimum Fax 2010, credo. Stefano, correggimi se sbaglio. 2011. Però appena uscita in inglese, riveduta e corretta, diciamo. Riaggiornata, anzi. Ecco, fra l'altro esce in lingua inglese perché probabilmente sei stato il primo al mondo a indagare in maniera così compiuta e sistematica questo fenomeno, di cui insomma si parlava, si iniziava a intuire, però mancava una visione analitica, una visione strutturale, una visione completa. Questo ovviamente ti fa assolutamente onore, i nostri complimenti. Tu in quel libro tratteggi gli appetiti di Cina, dei paesi del Golfo, per esempio nell'Africa orientale, ma non solo. Ultimamente quali altri attori si stanno muovendo e per quali terre? Com'è cambiata quella dinamica, se è cambiata? Ma quella dinamica va un po', si muove un po' nello stesso solco per cui è iniziata a partire dall'inizio del 2009, fine del 2008, cioè grandi investimenti di sulla terra, soprattutto nell'area subsahariana, nel sud-est asiatico, investimenti che in parte sono condotti da quegli stati che tu hai detto, più gli stati del Golfo Persico che i paesi asiatici per quanto riguarda l'Africa subsahariana, ma soprattutto sono condotti da fondi finanziari di vario genere che hanno reinvestito il capitale speculativo che prima era investito nel mercato azionario classico in un bene rifugio più sicuro che è appunto il cibo e quindi la terra. Se poi andiamo a vedere chi investe nella terra, chi sta investendo e chi ha investito negli ultimi ormai 5 anni, la stragrande maggioranza è costituita da fondi pensione, fondi speculativi di vario genere come gli hedge fund, fondi di intermediazione, insomma sono degli attori protagonisti di questa corsa alla terra, sono effettivamente delle persone, dei broker che prima lavoravano magari in banche commerciali come Goldman Sachs o Merrill Lynch e che poi si sono in qualche modo reinventati come gestori di fondi che investono prevalentemente nell'agricoltura. E beh, insomma, il panorama che stai tracciando non è affatto confortante, perché stiamo parlando di attori come dire, con un know-how, con una spregiudicatezza, con una velocità di movimento, con risorse finanziarie notevoli. Però tutto questo fenomeno che tu così ben descrivi nel libro, il land grabbing, cioè l'accaparramento delle terre, nasce in realtà per una precisa funzione, correggimi se sbaglio. I paesi attori che operano questi acquisti o questi affitti a prezzi irrisori delle terre in paesi più poveri, tutto nasce per soddisfare il bisogno interno di cibo, no? O fra le cause, insomma, c'era questo. Sì, sono due le cause. Allora, gli investimenti diretti dallo Stato, diretti da una politica statale di alcuni paesi, segnatamente appunto dall'Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi, da Qatar, sono degli investimenti determinati a garantirsi la sicurezza alimentare interna, perché sono paesi effettivamente con una morfologia complicata in cui evidentemente non si possono produrre alimenti e che si sono impauriti al momento della grande crisi alimentare del 2008, perché i paesi produttori di derrate alimentari come il grano, il riso e il mais hanno stabilito dei blocchi alle esportazioni e quindi hanno inaugurato questa nuova politica, i paesi importatori come per esempio l'Arabia Saudita, di esternalizzare la propria produzione agricola in paesi amici e garantirsi quindi in questo modo la sicurezza alimentare interna. Dall'altro punto di vista però la maggior parte degli investimenti non sono questi, sono quelli condotti da attori finanziari che producono o alimenti che poi esportano in mercati più redditizi di quelli locali, oppure anche alimenti che sono diretti al mercato energetico, cioè prodotti che poi vengono trasformati per il bioetanolo oppure per il biodiesel. E su questo diciamo, sì, c'è una fortissima responsabilità anche dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che hanno stabilito attraverso delle leggi di programma un fortissimo aumento di utilizzo di agrocarburanti da qui al 2020, quindi hanno in qualche modo aperto un mercato e aperto quindi la possibilità di profitto e quindi la possibilità di speculazione. Chiarissimo, Stefano. In questa puntata, Stefano Liberti, stiamo tentando di capire, di rispondere in ultima istanza a quella che è una domanda, cioè l'assenza di pane, l'assenza di grano e quindi in ultima istanza l'assenza di terra sulla quale coltivare il grano e poi produrre il pane, porta all'esplosione di conflitti, porta a tensioni sociali così alte che alla fine si imbraccia il Kalashnikov e si va a finire inesorabilmente in una guerra. La puntata è stata battezzata Guerre per fame. Stiamo cercando di capire quanto regga questo modello e se possa aiutarci a spiegare anche e a prevenire magari future tensioni e conflitti. Per cui l'ultima domanda in realtà te la faccio subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. Quanto alla scarsità di cibo, è un poco facile accesso alle risorse alimentari sia un detonatore o un catalizzatore di conflitti. Questa è un po' la domanda principe a cui tentiamo di rispondere in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Siamo con Stefano Liberti, autore di Lead Grabbing, edito da Minimum Fax. Da pochissimo ci svelava Stefano, è uscita la versione inglese con qualche informazione, qualche chicca, qualche aggiornamento in più. Se non l'avete letto, vi consiglio di leggere il libro, perché è una accurata fotografia di un fenomeno incredibile, che è quello dell'accaparramento delle terre. Ovviamente terra e cibo sono indissolubilmente legati. Stefano Liberti, giornalista e scrittore, l'ultima domanda per te è proprio questa, molto diretta. Il land grabbing può portare, ha portato a conflitti veri e propri? Cioè il fatto che la Cina, il fatto che una multinazionale, il fatto che un fondo finanziario vada a comprare immensi territori in Etiopia, in Kenya, eccetera, eccetera, ha scatenato o può scatenare conflitti? Cioè gente che prende il Kalashnikov in mano? Ha scatenato molte proteste, ha scatenato molte manifestazioni, ha prodotto anche dei risultati politici, perché si è cominciato a parlare in modo molto più, diciamo, più approfondito di land grabbing proprio nel 2008-2009, quando c'è stata una grossissima rivolta in Madagascar in seguito a un accordo con cui l'ex presidente, il presidente dell'epoca, aveva concesso ad una multinazionale coreana, cioè alla Daewoo, la metà delle terre coltivabili del paese. Quello ha prodotto delle straordinarie e diffusissime proteste nel paese, che si sono poi andate a sommare ad una, diciamo, tensione, stabilità politica preesistente, che poi hanno portato al rovesciamento del presidente, che è poi dovuto scappare in esilio all'estero. Quello è il caso più eclatante, ma ci sono un sacco di casi, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, in cui c'è maggiore coscienza anche nell'opinione pubblica dei paesi del sud del mondo, grazie anche alle operazioni, al lavoro fatto da alcune organizzazioni contadine molto strutturate, soprattutto in alcune zone dell'Africa. Ci sono state varie proteste che hanno portato in alcuni casi al cancellamento degli accordi. C'è un caso molto noto in Senegal, in cui peraltro è implicata un'azienda italiana che aveva avuto 20.000 ettari di terra nel nord del Senegal. C'è stata una rivolta della popolazione locale, il presidente Wade, che poi anche lui non è stato riletto, ha cancellato l'accordo perché ci sono state delle manifestazioni tali per cui a un certo punto ci sono stati anche dei morti in quelle manifestazioni, sì. E l'accordo è stato cancellato, poi dopodiché la terra è stata concessa in un'altra zona, dove io sono stato tra l'altro recentissimamente, e sta provocando le reazioni, le proteste, in questo caso non dei contadini ma degli allevatori che utilizzavano la terra per far pascolare le proprie mandrie. Per cui questo provoca sempre a livello locale dei suoi movimenti possono estendersi, diciamo, a livello di paesi, possono anche, come dire, superare le frontiere, perché comunque le organizzazioni contadine si stanno strutturando molto, il tema è molto più sentito di quanto fosse all'inizio, quando io ho cominciato a fare le ricerche e i viaggi sul campo per studiare il fenomeno, e comunque il fatto è che il problema è che la terra che viene concessa e quindi sempre di meno, e quindi i contadini si vedono limitare le proprie risorse e quindi sono sempre più, come dire, sono sempre più allerta. Certo. Devo dire che queste proteste e queste manifestazioni e questa sensibilizzazione dell'opinione pubblica è più forte in quei paesi in cui è possibile esprimere il proprio dissenso, quindi in paesi più aperti, più democratici. In Etiopia, il caso che dicevi prima, è difficile avere le manifestazioni sul land grabbing, perché si tratta di un paese autoritario e, diciamo, più o meno autocratico, in cui è assolutamente impensabile che una popolazione contadina, ma anche una popolazione urbana, possa dissentire da una politica di Stato in questo modo così eclatante. Però credo che ne vedremo, insomma, di manifestazioni, di proteste, sempre di più si parlerà di lotta per la terra nei paesi del sud del mondo. Grazie. Allora, Stefano Liberti, che ha scritto Land Grabbing, Minimum Fax, cercatelo se non l'avete letto. E poi, fra l'altro, c'è questa tua anima, no? La seconda vita di Stefano Liberti, un po' più documentarista, che si appassiona anche al video, e segnaliamo con grande piacere il documentario a cui hai lavorato e che stai presentando in queste settimane in Italia, Stefano. Non c'entra niente con quanto abbiamo parlato fino adesso, si chiama Container 158, ho passato io insieme al mio collega, coautore, regista come me, Enrico Parenti, un anno praticamente nel campo Rom, attrezzato i piedi salone a Roma, che è il campo Rom più grande d'Europa, ci vivono 1.000 persone, abbiamo passato un anno lì dentro, anche trasferendoci alla fine per un po' di tempo in un container, e abbiamo fatto questo documentario che è uscito al Festival Internazionale del Film di Roma a novembre, poi è stato presentato a Milano, a Torino, adesso da gennaio ci saranno tutte altre proiezioni, e verremo aggiornati. E allora, in bocca al lupo anche per questa avventura filmica. Grazie Stefano, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Insomma, gentili ascoltatrici e ascoltatori, avete capito quanto acqua, terra e cibo siano indissolubilmente legati. Quello che sta emergendo da questo nostro viaggio, da questa nostra analisi, è sicuramente, come dire, da parte una certa miopia da parte dei governi occidentali nel leggere le crisi, nel sottovalutare l'elemento, il fattore cibo, il fattore alimentare. E dall'altro invece ci raccontava Stefano Liberti, che ha analizzato questo fenomeno del land grabbing, una crescente consapevolezza in alcuni territori dove, africani, dove fondi internazionali, dove Cina, dove paesi del Golfo invece, è il caso di dire, vanno a saziare i loro appetiti. Cerchiamo però di chiudere positivamente questo speciale di Nessun Luogo Lontano. Abbiamo focalizzato, abbiamo messo in luce quelli che sono i fattori nevralgici, i motivi di crisi, e andiamo a parlare con chi risolve quelle crisi e lavora proprio sull'emergenza. Vicky De Marchi, portavoce del World Food Program. Vicky, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno. Allora, voi del World Food Program vi muovete soprattutto sulle emergenze, non solo conflitti ma anche carestie, ad esempio, o disastri naturali. Però, come dire, suona forse un po' strano chiedere a voi, no, una ricetta per disinnescare questo processo che abbiamo descritto in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, cioè dell'assenza di cibo come detonatore nelle crisi, nei conflitti, però voi avete un polso formidabile sul tema, quindi la domanda vi tocca in qualche modo. Sì, sicuramente il tema, la mancanza del cibo o il fatto di non poter accedere al cibo è un detonatore, e quello che diciamo sempre è che un mondo affamato non può essere un mondo pacificato. E so che ne avete già discusso, ma solo vedendo la situazione attuale, come entriamo nel 2014, vediamo che ci sono già delle grandi crisi umanitarie. Una è la Siria, che oramai sta entrando nel suo terzo anno, che è veramente un'emergenza, una delle più ampie, delle più gravi dell'ultimo decennio, forse degli ultimi decenni, ma c'è anche la Repubblica Democratica, la Repubblica Centrafricana, c'è il Sud Sudan, e poi c'è la ricostruzione nelle Filippine dopo il tifone. La ricetta, io credo che più di una ricetta ci sia proprio anni di esperienza che mostrano come l'approccio ai temi della fame, dell'intervento umanitario, non possa che avere un doppio binario. Uno è l'intervento in emergenza, cioè succede il tifone, la gente senza nulla, è chiaro, sì, che uno deve portare il cibo, e lì, come dire, c'è un imperativo morale, insomma, prima ancora che qualsiasi altro ragionamento. Poi però c'è il tema del costruire quello che oramai si chiama la resilienza, cioè il fatto che le popolazioni abbiano gli strumenti per far fronte agli shock, perché purtroppo noi viviamo una situazione in cui ci sono degli elementi, prima di tutto quello climatico, senza contare l'economia e una serie di altri fattori, che sta intervenendo enormemente su molti paesi, pensiamo a tutta la fascia del sub-Sahara, la fascia saheliana, e lì appunto si tratta di attrezzare le popolazioni, come? Non solo certo dandogli il cibo, ma dandogli gli strumenti per poter avere intervenire, fare investimenti in agricoltura, aiutare le famiglie a mandare i figli a scuola, creare delle situazioni che abbiano un minimo di protezione sociale, di reti di protezione sociale. Queste sono alcune delle cose. Sì. Vicky, ti interrompo per farti una domanda. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, che era ospite poco prima di te, dice, beh, insomma, alla fine c'è stato un eccesso di attenzione da parte dei governi, soprattutto europei, parlando della rivoluzione araba, no? Della primavera araba, scusami, un eccesso di attenzione a quelle che erano le vicende politiche, le dinamiche politiche, ma si è poco raccontato il fatto che la primavera araba nasce perché c'era poco pane a Tunisi, al Cairo, eccetera, eccetera, a Tripoli, e quindi nasce soprattutto per quello. E dice, beh, in questo i governi occidentali hanno una enorme responsabilità, perché c'è grossa miopia nel voler leggere le crisi e i conflitti esclusivamente dal punto di vista politico, mentre, come giustamente dicevi tu, insomma, un mondo affamato non può essere un mondo pacificato. Tu vedi la stessa miopia o, come dire, c'è qualche attore che secondo te si muove virtuosamente? Diciamo, c'è in effetti una sottovalutazione, no? Anche perché il problema non è oggi tanto della mancanza di cibo, pensiamo nel mondo appunto del Nord Africa, nel mondo arabo, non è che ci sia la mancanza di cibo, perché il cibo c'è, cioè il problema è dell'accesso al cibo, cioè il fatto che la gente ha il cibo ma non c'ha i soldi per comprarlo. Quindi il problema della fame oggi, del problema della sicurezza alimentare, si pone oramai moltissimo, soprattutto per le popolazioni urbane, le popolazioni delle città, come un problema non di assenza ma di accesso al cibo. Tanto è vero che noi abbiamo anche cambiato le nostre forme di intervento, dando voucher, dando buoni alimentari. E poi l'altra cosa è che è vero che c'è una sottovalutazione, perché spesso non si vede appunto la mancanza di cibo, l'aumento dei prezzi, ma il fatto che ad esempio uno Stato comincia a tagliare le sovvenzioni che riguardano ad esempio alcuni beni come il pane, no? In sì. cui c'era una quasi, non dico gratuità, ma quasi. Allora, lì non si vede, magari l'intervento della cosiddetta austerity, no? O sì. le forme di stabilizzazione che oramai conosciamo anche noi nei nostri paesi, e se pensiamo anche a alcuni fenomeni in Grecia, in altri paesi, certo. no? C'è un elemento economico certo. Alla base appunto della difficoltà dell'alimentazione. Poi ci sono paesi in cui un aumento dei prezzi del genere alimentare provoca effetti drammatici in famiglie, soprattutto quei 2 miliardi di persone che vivono con meno di $2 al giorno, in cui l'aumento anche di un solo genere di beni alimentari incide su un bilancio che per il 60-80% viene speso sul cibo, mentre noi ne spendiamo il 10, il 15, il 20%. È chiarissimo, chiarissimo. L'incidenza ovviamente percentuale è totalmente diversa se il tuo paniere di consumo quotidiano è veramente ridotto, meno di $2 al giorno nella fattispecie. Grazie Vicky De Marchi, portavoce del World Food Program, per essere stata con noi. Grazie. Buona giornata e buon anno, buon lavoro. Grazie a voi. E ho giusto pochi secondi per ringraziare Mira Lucchetti e Valeria Bernardi che hanno confezionato con me questa puntata, a voi per essere stati all'ascolto. Seguitemi su Twitter Giampaz, sulla mia pagina Facebook Giampaolo Musumeci, per sapere i prossimi viaggi e le prossime missioni che andrò a affrontare, e magari, chissà, racconterò anche qui su Radio 24. Intanto un saluto, ancora buon anno da Giampaolo Musumeci.